9 in punto. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a 9 in punto. Ammetto che dopo la nomina di ieri dei sottosegretari mi avrebbe fatto piacere sentire la vostra opinione, ma insomma sicuramente ci torneremo. Insomma, immaginare un confronto tra i due viceministri all'economia Luigi Casero e Stefano Fassina, insomma, con posizioni oggettivamente piuttosto diverse, magari anche dallo stesso ministro Saccomanni. Sapere che cosa ne pensate di Micaela Biancofiore, sottosegretario alle pari opportunità. Sentire vostre valutazioni magari anche su i sottosegretari agli esteri, i viceministri agli esteri. In realtà sono state delle scelte buone, tutto sommato, insomma, dei tecnici alla fin fine, tra il politico e il tecnico. E però, insomma, su questo avremo tempo di tornare. La legislatura non sappiamo quanto duri, ma tempo di intervistare viceministri, sottosegretari e sentirli lo avremo. A chi ci scrive, dato che lo abbiamo annunciato poco fa, che parleremo di Siria in questa puntata, ci prendiamo un attimo di respiro. Chi ci scrive, i veri problemi sono altri: la legge elettorale, la spesa pubblica, la pressione fiscale. Voi perdete tempo a parlare d'altro. Guardi Franco, che ci scrive via SMS, parliamo di legge elettorale, spesa pubblica, pressione fiscale praticamente tutti i giorni. Per una volta abbiamo deciso di non guardare al nostro ombelico, ma di guardare un po' più lontano. Insomma, vedremo se la puntata vi interesserà, vi piacerà. Parliamo di Siria, dunque. Come si diceva in apertura, salutata all'inizio come una nuova propagine della primavera araba, della rivolta contro i regimi oppressivi, tramutatasi presto in una sorta di guerra civile, e adesso diventata nella sostanza, almeno questa la mia impressione da fuori, da non profondissimo conoscitore della materia naturalmente, ma chiederò conferma a chi ne capisce di più, in una sorta di guerra per bande. Una guerra per bande nella quale agiscono molte forze internazionali. Si dice da tempo che ci sono sul terreno forze speciali inglesi e francesi, ma non solo, naturalmente. L'Iran, i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, hanno un ruolo attivo all'interno del conflitto pro Assad. L'Hezbollah libanese ha dichiarato pubblicamente, ma in realtà già si sapeva, insomma, di fatto una conferma tre giorni fa, che a fianco di Assad nel conflitto, un'opposizione disgregata in quelle che possiamo definire mille sigle, una situazione complessa nella quale evidentemente al momento gli americani non sanno che ruolo giocare. Vi chiediamo questa mattina, se avrete voglia di intervenire, anche sentite le opinioni, vi chiediamo questa mattina se pensate che in Siria si debba intervenire, ci voglia un intervento militare. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, www.facebook.com/9in.radio24 per commentare sulla nostra pagina Facebook, oppure potete scrivere a me se volete su Twitter, Simone Spezia. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno anche a Daniele Raineri, inviato del Foglio. Raimondo Schiavone, segretario generale di Assadaka, centro italo-arabo e del Mediterraneo. Schiavone, possiamo dire tranquillamente che voi siete pro Assad sostanzialmente, poi ci spiega bene qual è in cosa consiste la vostra associazione. Se dobbiamo semplificare possiamo dire che siamo pro Assad, sì. Benissimo, poi entreremo nel dettaglio. Alberto Negri, si diceva in apertura, ti chiedo conferma o smentita di quello che dicevo da conoscitore, ripeto, non profondo della materia naturalmente, siamo passati da quella che sembrava una propagine di primavera araba a una guerra civile, a una guerra per bande. A tutti gli effetti la situazione in Siria, almeno dall'esterno, a noi appare così al momento. Beh, è una situazione difficilissima, lo dicono le cifre anche, no? Migliaia di morti, siamo ben oltre i 70.000, 1,5 milioni di profughi oltre i confini siriani, 4 milioni di rifugiati interni, 7-8 milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria. Questa emergenza umanitaria è già di per sé l'evidente segnale della disgregazione di questo paese. Si era appunto cominciato, come dicevi tu, con l'idea che fosse una primavera araba, che si potesse arrivare anche brevemente a un cambio di regime. Questo pensavano per esempio i turchi quando in poco tempo passarono dall'amicizia con Assad al fronte opposto. C'è stato anche un calcolo, se vogliamo, errato da parte della comunità internazionale. In realtà Assad è ancora lì e intanto il paese sta precipitando in un gorgo di distruzione che lo fa somigliare sempre di più a una sorta di Jugoslavia araba. Daniele Raineri, anche il tuo punto di vista sulla situazione. Ma il mio punto di vista sulla situazione, visto quello che chiedevi prima sull'intervento dall'esterno o no, è che l'intervento dovrebbe essere fatto il prima possibile, perché è evidente che la Siria non può essere lasciata sola a se stessa. Quando io sono in Siria e parlo con i siriani, loro mi dicono: guarda, come fate voi a pretendere di sapere meglio di noi siriani che cosa è giusto o no per la Siria? Ecco, dopo 2 anni di guerra civile e a quota 70.000 morti, anche se alcuni rapporti interni del governo di Damasco dicono che ormai le morti hanno raggiunto quota 85.000. Ti interrompo, Daniele, in realtà gli stessi americani, se non sbaglio lo stesso Kerry, aveva detto nelle settimane scorse che secondo le loro fonti i morti sono 90.000, insomma. Comunque, sì, diciamo, insomma, che le cifre ovviamente sono molto difficili da verificare, da confermare, perché sul campo la situazione è ovviamente molto caotica, però diciamo l'ordine di grandezza è quello e giustifica l'intervento dall'esterno. Alberto, poi verremo anche a questo. Ti voglio chiedere, poi andremo a Raimondo Schiavone, ti voglio chiedere: ma che cosa c'è di così strategico in Siria? Perché questo conflitto è così importante? Ma innanzitutto la Siria è, come vedete bene se guardate una cartina, nel cuore del Medio Oriente, confina con la Turchia, con l'Iraq, con il Libano, con Israele, con la Giordania. Ricordiamo che Israele dal 1967 occupa le alture del Golan, e questa guerra siriana in qualche modo si riflette come una sorta di specchio deformante in un altro conflitto civile, che è quello iracheno. Anzi, quello iracheno ha influenzato, se vogliamo andare a vedere ciò che accade dopo il 2003, anche questa situazione siriana, e influisce ancora oggi, no? Da una parte c'è un governo in Iraq che è in qualche modo favorevole ad Assad e alleato dell'Iran, e dall'altra parte ci sono i gruppi sunniti in contrasto con il governo di Baghdad che sostengono la guerriglia siriana e a loro volta combattono all'interno la loro battaglia. C'è stata una sorta di alleanza tra il fronte Jabhat al-Nusra siriano e quello di Al-Qaeda iracheno, anche se poi qui ci sono tante cose da dire, ma insomma in più la Siria ha una base russa a Tartus. Quindi anche quando si parla di intervento, gli americani, come continua a dire Obama, esaminano tutte le opzioni, anche quelli militari non sono affatto semplici. La Russia e la Cina si sono opposte strenuamente al Consiglio di sicurezza a ogni intervento esterno. Anche un intervento militare dovrebbe essere modulato in modo diverso. Si parla di una no-fly zone con un intervento aereo, di un intervento militare diretto. Forse gli stessi americani stanno, come dire, oscillando in questo momento verso una decisione, come dire, di mezzo, che è poi quella di armare i ribelli, come sta discutendo anche Chuck Hagel, il capo del Pentagono, perché di questo si tratta, di una guerra civile che però, come tutti sappiamo, è anche una proxy war, cioè una guerra per procura, dove tutte le fazioni degli stati intorno del mondo arabo e occidentale hanno messo il naso. Per questo che oggi la guerra siriana e la disgregazione della Siria si prospetta come anche una sorta di bomba all'interno dei confini del Medio Oriente. Il dopo Assad a questo punto preoccupa ancora di più di quello che sta succedendo adesso, che nonostante tutto è quello che abbiamo sentito, un vero e proprio bagno di sangue. Raimondo Schiavone, poi abbiamo già qualche ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Ci spieghi innanzitutto che cos'è la vostra associazione e qual è la vostra posizione? Ma noi, la nostra è una federazione di associazioni regionali, esiste in Italia, in alcuni paesi della Lega Araba, esistono tante Asadaka in Italia che si concentrano in un'unica federazione che io rappresento. L'associazione si occupa sia di rapporti in generale con il Medio Oriente, sia sul piano giornalistico, sul piano delle attività di cooperazione, che sul piano dei progetti umanitari. Questo è detto molto, molto sinteticamente, è l'attività della nostra associazione. In quanto al merito, se posso esprimere due considerazioni, a parte che condivido pienamente le considerazioni fatte da Alberto Negri, che mi sembra conosca molto bene le vicende medio orientali, però vorrei magari precisare un aspetto. A mio parere non stiamo vivendo una guerra civile, una guerra civile è una guerra che si combatte tra popoli dello stesso Stato. In questo caso in Siria non esiste assolutamente una guerra che si combatte tra siriani, è una guerra che si combatte tra i siriani, è una serie di forze esterne, come diceva bene prima Alberto Negri, in Siria ci sono combattenti di tutto il mondo, ci sono intromissioni da parte di tanti paesi, sia sul piano militare che sul piano delle sovvenzioni economiche. E sia, chiariamolo Schiavone, sia da una parte sia dall'altra, non è che i combattenti stranieri siano solo da un lato. Ma vede, sia da una parte sia dall'altra, però è anche vero una cosa, che quando un governo legittimo chiede aiuto agli alleati è un'operazione corretta. Quando dei terroristi vengono coadiuvati da altri terroristi o armati da paesi che hanno intenzioni soltanto di rovesciare un regime, quella non è un'operazione, anche dal punto di vista bellico, diciamo, corretta. Ecco, quindi sì, è vero che Hezbollah è a fianco in questo momento di Assad e ci sono i combattenti di Hezbollah, ma è anche vero che c'è un continuo entrare in Siria da parte di forze che vengono armate e preparate all'estero, in particolare in Iraq, in Turchia, in Arabia Saudita, in Qatar, che arrivano soldi da quei paesi, dai paesi del Golfo, risorse che servono a sostenere le rivolte, che ci sono combattenti addestrati in Francia e in Germania che combattono a fianco dei ribelli, che la vicenda irachena influisce moltissimo. Quindi la vicenda siriana è prevalentemente una vicenda di politica internazionale, dove quello che è successo in Iraq ha influito moltissimo, cioè l'ascesa sciita in Iran ha portato un disequilibrio in quell'area che in questo momento sta pagando la Siria. Questa la sua visione, la visione di Raimondo Schiavone, certo, poi sentiremo su questo anche Negri e Raineri, però voglio iniziare a sentire gli ascoltatori. Omar da Venezia, buongiorno. Buongiorno, grazie che mi avete veramente dato l'opportunità di partecipare. A me dispiace, ma quello che diceva il signore che mi ha preceduto, non so cosa chiamarlo. Chi è che ha detto che in Siria c'è un governo legittimo? Chi è che ha detto che in Siria c'è... Lei è siriano, Omar, lei è siriano, sì, immagino. Io sono siriano, vivo in Italia da 25 anni. Come altri 16 milioni di siriani, ho dovuto scappare via dalla Siria, da questo regime, da questa vergogna. Noi siamo da 40 anni sotto tortura. Come si può parlare di un regime, di un governo legittimo? Chi è che li ha letto? Noi, tutto il mondo sa che in Siria non sono mai state elezioni. In Siria in 2 minuti hanno cambiato la Costituzione per mettere il figlio del presidente morto a mettere suo figlio, come in Corea del Nord. Cioè, a me dispiace quando si parla di guerra civile. Questa non è guerra civile. Qua c'è un regime, è stato armato per 40 anni per rimanere al potere, per ucciderci. Non so se avete sentito, solo ieri 400 persone civili in un piccolo villaggio sono state uccise solo perché sono contro il regime, solo perché sono scesi in piazza. A me dispiace, chiedo scusa. Cosa devo dire. Io capisco. Ma come si può permettere di parlare di un regime legittimo? Io quando ho sentito queste parole veramente quasi mi arriva un infarto. Ma è possibile parlare in questi termini? Credeteci, noi non siamo sunniti contro alawiti, non siamo cristiani contro alawiti. Con Assad ci sono sono i sunniti, ci sono i sciiti, ci sono gli alawiti, ci sono i terroristi di Hezbollah, c'è il terrorista iraniano, c'è Putin che manda i suoi esperti iraniani e russi per continuare a governarci in procura con Assad. Cioè, come si può parlare? Vi prego, e io vi chiedo aiuto, sono già 90.000 persone morte di sicuro, ma ce ne sono altre 300.000, non si sa dove sono. Ci sono 8 milioni di persone scappati via di casa. Ma quale Omar, Omar, sì, capisco benissimo. Lei ha ancora parenti in Siria? Io ho parenti in Siria, ma ho anche parenti in Libano, in Turchia, sono scappati in Turchia, in Egitto, in Iraq, in tutto il mondo. Già se ci ha mandato, se ci cacciano, ma è possibile? Basterebbe avere un po' di orgoglio umanitario a dire che questo è falso, che questo non è un regime legittimo, questo non è un governo. Tutti sanno che questa è una banda, tutti sanno che questi hanno mangiato il paese per 40 anni, tutti sanno che il paese, la Siria è stata distrutta per 40 anni. Grazie Omar. Grazie Omar, va benissimo e capisco anche che a vedere il suo paese in questa situazione si scaldi tanto. Sentiamo anche Anas o Anas da Carrara, buongiorno. Sì, buongiorno. Posso solo condividere quello che ha appena detto il nostro amico Omar, che io sono di origine siriana, sono nato qui in Italia. E posso dire che fin dagli anni 80 i rapporti di Amnesty International confermano diciamo il sistema dittatoriale del regime siriano, confermano le torture dei protagonisti, diciamo, dell'opposizione politica in Siria, nelle prigioni siriane, dei servizi segreti che reprimono, hanno represso questo popolo per tutti questi anni. Io considererei questa, non la chiamerei guerra civile, perché l'esercito che oggi combatte contro il regime siriano è nato per difendere le manifestazioni pacifiche che si sono svolte per 2 anni. Poi è degenerata la cosa perché ovviamente stiamo parlando di uno Stato con un esercito, con delle bombe, con degli aerei che si lura indipendentemente, i militari, ha silurato finora case di persone, tra cui miei parenti e persone di cui ho testimonianza diretta. Mi meraviglio come finora non si sia creato almeno dei corridoi umanitari per portare aiuti medicinali ai civili, ai profughi che all'interno della Siria, a persone che da 2 anni sono oltre che senza lavoro ma sotto i bombardamenti, che si spostano da un villaggio all'altro per cercare di evitarli, a volte riuscendoci, molte volte no. Mi scusi la domanda, ci sono state vittime nella sua famiglia, mi diceva, che hanno subito bombardamenti? Sì, purtroppo sì, vittime, case distrutte, di parenti diretti, e quindi persone scappate all'estero, persone, un vero e proprio dramma internazionale. Grazie anche a lei, Anas. Sono contento di queste telefonate perché innanzitutto permettono anche un dibattito più forte su questi temi, anche perché ci è già successo quando abbiamo parlato di Tunisia, che molte persone che vivono in Italia e di origine tunisina allora e siriana adesso ci telefonino in diretta per raccontare quello che pensano e come vivono la situazione nel paese pur dalla distanza. 9 in punto. Sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/9inpuntoradio24 c'è Carlo Bonvini che ci scrive una riflessione interessante, perché dice: aiutare armando la mano dei ribelli potrebbe essere un errore dovuto al fatto che la complessità nella quale si compone l'intera forza ribelle non permette di individuare chiaramente gruppi esterni alla rivolta che, approfittando della situazione, farebbero incetta di armi. Servirebbe, dice, un intervento tampone da parte di tutta la comunità internazionale. C'è chi, come Silvia Bonetti, ci scrive che a pelle condivide la sensazione raccontata poco fa da Alberto Negri di un nuovo scenario jugoslavo o kosovaro. Mario Calabresi, buongiorno. Buongiorno a voi. direttore della Stampa, in Siria da 24 giorni è scomparso Domenico Quirico, appunto inviato della Stampa. Direttore, che cosa si sa ad oggi? Che cosa si è riuscito a capire? L'ipotesi di un rapimento c'è? Purtroppo non si sa niente, ed è questa la cosa terribile. Non si sa niente perché si sono perse completamente le tracce di Domenico. Domenico è scomparso, l'ipotesi del rapimento certo è in piedi, non si capisce che tipo di rapimento possa essere, se è un rapimento da parte di chi. Bisogna partire da un dato: Domenico sapeva di andare in una zona molto pericolosa, sapeva di andare in una zona in cui ormai molto raramente vanno giornalisti occidentali, e sapeva che per un certo periodo non sarebbe riuscito a comunicare, tanto che quando era partito ci aveva detto sia a noi che alla famiglia che per almeno 7-8 giorni non ci saremmo sentiti. Questi 7-8 giorni sono passati, ma dopo quelli Domenico non è riapparso. Noi sappiamo che era nell'area di Homs ed era entrato dal confine libanese. Sappiamo che in quella zona ci sono più guerre contemporaneamente, quella tra tradizionale, che dura ormai da tempo, tra i ribelli di aree diverse, mossi da ideologie diverse contro il regime siriano, e però in questo momento c'è anche quella degli Hezbollah libanesi, alleati del regime siriano, contro i ribelli, per cui sostanzialmente è il punto in cui ci sono due scontri, ed è una zona anche con molte bande irregolari di banditi che interessati a traffici illegali. Allora, la situazione è super complessa da questo punto di vista, per cui è difficilissimo riuscire ad individuare chi, come e perché, che cosa può essere successo. Sappiamo però alcune cose, sappiamo che c'è un modo di operare di chi fa rapimenti in quell'area, che è anche quello di prendere una persona in ostaggio, di aspettare un certo periodo di tempo per alzare la tensione, l'aspettativa, prima di chiedere un riscatto. Certo, il tempo è molto lungo in questo caso. Sì, il tempo è lungo. Adesso noi siamo, siamo spinti a sperare, ad attendere, e abbiamo esempi e casi di persone che prima che i rapitori siano fatti vivi è passato anche più di un mese. Oppure può essere stato bloccato, fermato dalle forze del regime, dai servizi del regime. Noi non sappiamo questo, e anche in questo caso possono esserci tempi lunghi. Diciamo così, io l'unica cosa certa che ho è che noi siamo in contatto tutti i giorni, oltre che con la famiglia, con la moglie, con le sue due figlie, con le autorità italiane, e diciamo che il lavoro che sta facendo l'unità di crisi della Farnesina, che coordina tutti gli sforzi italiani, vi posso dire che è notevole. Stanno veramente guardando in ogni luogo e cercando ogni filo che può servirci a portarci, che può servire a portarci a Domenico. In Siria, dall'inizio del conflitto, 7 giornalisti risultano dispersi e ci sono 23 giornalisti uccisi dall'inizio del conflitto in Siria. Oggi voi avete deciso di celebrare come quotidiano questa giornata, che è la giornata mondiale per la libertà di stampa, proclamata dalle Nazioni Unite, con un numero speciale che tra l'altro contiene anche un'intervista a Quirico. Sì, intanto voglio dire una cosa: è la giornata mondiale per la libertà di stampa e la sicurezza dei giornalisti, perché nei dibattiti che ci sono negli ultimi anni si sottolinea questo, che le due cose vanno tenute insieme, perché oggi la sicurezza dei giornalisti è una delle chiavi per poter fare libertà di stampa. E sicurezza, se uno chiede, noi abbiamo dedicato questo numero speciale, che c'è una sovracopertina, tra l'altro con una bellissima foto di Domenico al lavoro quando era in Mali, faceva il suo reportage in Mali, una foto di Fabio Bucciarelli che ha appena vinto la gold medal, la Robert Cup, al premio fotogiornalistico più importante del mondo, e noi li avevamo mandati insieme in Mali. Il dibattito è questo: se uno chiede a un giornalista francese o tedesco, inglese, che cosa significa non essere sicuri, dove rischia la vita un giornalista, ti rispondono appunto in Siria, in Pakistan, in Sudan, in Iraq, in Afghanistan. Se uno lo chiede invece a un giornalista russo o messicano, ti rispondono a casa. A casa, se il messicano, noi abbiamo un bel racconto di una giornalista messicana, Anabel Hernandez, che dice: se tu ti occupi dei narcos, dei traffici, dei rapporti tra la politica e i narcos, o delle politiche che fanno del modo in cui la polizia agisce nei territori dei narcos, allora tu diventi immediatamente un bersaglio. E così un giornalista russo investigativo, chi fa inchieste in Russia, ti dice: mettere il naso nel potere, negli affari del potere, è la cosa più pericolosa che c'è. Quindi sono cose diverse. Se tu lo chiedi a un italiano, è uno dei pochi paesi in cui esistono tutte e due le cose, in cui può essere pericolosa la Siria, ma può essere anche pericoloso, sappiamo quanti giornalisti italiani sono sotto scorta, fare inchieste sulla Camorra, l'Andrangheta, che questo avvenga nella Locride a Napoli o nell'Interland milanese o a Modena o nella provincia di Torino. Grazie per questo racconto a Mario Calabresi. Sì, tra l'altro, se volete andare a cercare nel nostro archivio, anche di questo noi abbiamo parlato nella puntata del 25 aprile, che ricorderete, abbiamo deciso per i nostri ascoltatori, abbiamo deciso di dedicare alla resistenza, nella fattispecie la resistenza contro l'Andrangheta. Mario Calabresi, città Modena, abbiamo parlato proprio con Giovanni Tizian, che vive sotto scorta per aver fatto delle inchieste proprio sull'Andrangheta, sulla presenza dell'Andrangheta in quei territori. Vive sotto scorta da circa un anno e mezzo. Grazie Mario Calabresi, buona giornata. Buona giornata. E noi torniamo al cuore di quello che stavamo discutendo. Prima di risentire Raimondo Schiavone, perché, come avete sentito, ci sono stati due ascoltatori di origine siriana che insomma sono stati abbastanza duri sulle dichiarazioni che ha fatto. Io voglio sentire Alberto Negri, insomma, su queste due posizioni che abbiamo sentito assolutamente estreme. Alberto. Ma qui giudicare una situazione, obiettività come quella siriana, è assai difficile. Non c'è dubbio che Assad, Bashar Assad, abbia perso gran parte della sua legittimità nel momento in cui ha attaccato la popolazione ad Ara, nel sud del paese, quel 21 marzo, quando ci furono le prime manifestazioni. È evidente anche che su Bashar Assad c'è stato anche un equivoco internazionale, perché si pensava che lui, giovane esponente della nuova generazione, benché figlio di Hafez Assad, fosse capace in qualche modo di cambiare registro al paese. Ci fu anche una sorta di primavera siriana che ormai appare un pallidissimo ricordo e una delusione incredibile, che fu dopo essere arrivato al potere cercò in qualche modo di fare qualche misura di liberalizzazione, ma ci fu un equivoco, perché Bashar Assad voleva modernizzare la Siria, ma non cambiarla il sistema di potere, e questo ha coinciso poi anche con i cambiamenti che stavano avvenendo nel resto del mondo arabo. Cioè era un regime che non poteva continuare sullo stesso registro precedente. E quando sono cominciate le proteste all'inizio pacifiche, gran parte di quelli che andavano in piazza appartenevano anche alla borghesia siriana. Poi la situazione è degenerata, anche perché, appunto, come si diceva prima, le influenze esterne sono state subito molto, molto forti, e si sono perse anche delle opportunità, delle occasioni, perché il piano di transizione, che in qualche modo era stato preparato dalle Nazioni Unite ed era stato sottoscritto dalle potenze internazionali per arrivare a un negoziato tra i ribelli ed esponenti del regime, è stato completamente disatteso, al punto che oggi l'inviato speciale dell'ONU Brahimi si vuole dimettere. Le stesse divisioni all'interno degli arabi e della Lega Araba segnalano che anche arrivare a una soluzione diplomatica e negoziale è assai difficile, complicato, se non impossibile. Mi ha colpito comunque un'osservazione che ha fatto uno degli ultimi ascoltatori che abbiamo sentito, il quale diceva: almeno potevano fare dei corridoi umanitari. Sì, ha ragione, almeno potevano fare dei corridoi umanitari, perché purtroppo in questo conflitto di umano non c'è quasi più niente. Ci scrive tra l'altro, e ci fa piacere citarlo su Twitter, Naman Tarshah, che è un collega siriano di origine, dice: oggi venerdì santo ai cristiani ortodossi mancano all'appello ancora due vescovi rapiti dai ribelli di Aleppo, visto che ricordavamo i giornalisti dispersi. Allora Schiavone, Raimondo Schiavone, ha sentito quello che hanno detto i nostri due ascoltatori? Prego. Sì, li ho sentiti e capisco il loro disappunto e capisco anche il loro dolore. Vede, diceva bene prima Alberto Negri, quello che è accaduto in Siria nella prima fase poteva apparire, e forse lo è anche stato, come una sorta di prosecuzione delle primavere arabe, per ciò che hanno prodotto le primavere arabe, forse è meglio che non lo sia stato, però una sorta di rivoluzione pacifica. A questa si sono aggregate tante persone, anche importanti della borghesia, anche alcuni parlamentari. Mi perdoni Schiavone, però lo snodo a questo punto è il ragionamento sulla legittimità o meno di Assad, del governo di Assad, mi sembra. Però vede, ascolti, la legittimità del governo di Assad, io le faccio due esempi sostanziali. Non so se lei ricorda la strage di Hula che ha portato alla cacciata dell'ambasciatore siriano dall'Italia. La strage di Hula, che è stata imputata da tutti i giornali e da tutte le televisioni mondiali come una strage fatta da Assad, è stato dimostrato poi da importanti giornalisti, e io vi cito Rainer Harman del Frankfurt Allgemeine Zeitung, scusate la pronuncia, non conosco il tedesco, che hanno dimostrato chiaramente che la strage è stata compiuta dai ribelli. Ci sono decine e centinaia di esempi nei quali esiste una trasposizione, una trasformazione della realtà e degli accadimenti che portano a fare le considerazioni che abbiamo appena sentito. Quando l'ascoltatore che abbiamo sentito prima dice i terroristi di Hezbollah, allora Hezbollah è al governo del Libano, è un partito che governa il Libano in questo momento, non si può dire i terroristi di Hezbollah, si ha una visione parziale della realtà. Ora è vero che Assad ha compiuto un sacco di errori. Io, intervistando un prete cristiano a Damasco alcuni mesi fa, lui mi ha detto queste parole: Assad ha pensato di essere Dio, ma non lo è. Era un prete, un sacerdote cristiano, che aveva delle posizioni in questa fase vicine ad Assad, però era in contrasto con la politica di Assad. Quindi, però questo non vuol dire che essere in contrasto con la politica di Assad vuol dire dare il governo della Siria e mettere in mano la Siria ad Al-Qaeda o metterla in mano ai fratelli musulmani. Vuol dire trovare una transizione democratica, quello che ha sempre proposto la Russia, quello che hanno sempre proposto alcuni paesi dello scacchiere internazionale, che hanno proposto di trovare una metodologia anche per superare Assad, perché nessuno sta dicendo che Assad deve rimanere presidente, si sta dicendo troviamo una forma di transizione, una forma di transizione che non sia la transizione delle che non sia una transizione violenta. 9 in punto. Daniele Raineri, del Foglio. Daniele, ma una transizione democratica, insomma una transizione diplomatica, chiamiamola così, secondo te è ancora possibile? Mi sembra, da quel che ci hai detto prima, che secondo te no, cioè non ci sono margini per una cosa di questo genere. Guarda, volevo, se è possibile, dire... Come no, precisare due cose. Su quanto è stato detto prima. La prima è su Quirico. Io sono all'oscuro ovviamente di quello che sta facendo l'unità di crisi alla Farnesina. Ma se fossi nei loro panni, io ricorderei che la Siria di Assad è debitrice ogni giorno della Russia, è debitrice nei confronti di Putin, perché da Putin riceve copertura diplomatica alle Nazioni Unite, riceve parte di ricambio per gli elicotteri, armamenti, quindi diciamo ha tutto l'interesse a non far arrabbiare Vladimir Putin. E io vorrei ricordare che noi abbiamo ancora una corsia preferenziale, diciamo, per il cuore di Putin, che è Silvio Berlusconi, che quando era premier, con la sua diplomazia delle pacche sulle spalle, diciamo, era insomma, l'amicizia tra i due è cosa nota. Ecco, io spero che si stia passando anche da lì, dalla Russia, perché è la Russia che ha la chiave, diciamo, per sapere che è successo di Domenico Quirico. Insomma, è quello che farei io. Quantomeno sapere che cosa è successo. Senti, dal lato invece di quel che si diceva della sostanza della questione siriana. Guarda, sulla transizione democratica io sono molto pessimista perché secondo me ormai non ci sono più le condizioni, non ci sono più le condizioni per una riconciliazione, nel senso che dopo questi massacri, dopo queste stragi di civili, dopo l'uso indiscriminato di un esercito contro una popolazione civile, non ci sono più le condizioni per far la pace con la famiglia Assad e con l'establishment militare che le sta attorno. Tutto passa, diciamo, da una caduta del governo Assad e loro per ora non danno segni di voler cedere, di voler trasferire il loro potere a qualcun altro. Quindi sono molto pessimista su una transizione, diciamo, politica ottenuta con mezzi diplomatici. Sentiamo un altro ascoltatore siriano, anche lui credo di origine, Mohamed, che ci chiama da Torino. Buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Pronto? Prego. Pronto. Buongiorno. Senta, io vorrei spiegare una cosa, perché è vero che è nata lì la rivoluzione siriana di 2 anni fa. È vero che nei primi 6 mesi i siriani sono scesi lì in piazza tutti quanti. Invece lì si è cambiato nel senso di dire, arrivati lì quei signori da fuori, rivoluzionari della NATO, che sono arrivati da fuori, sono tutti armati dalla Turchia, dal Qatar, dall'Arabia Saudita, dai francesi. Sì. Vengono armati e vanno a uccidere i civili loro, perché non è possibile vedere uno va lì per difendere il suo paese, per difendere contro un governo, va a uccidere una persona civile per strada, in piazza, a sgozzarla davanti a tutti quanti per mettere paura. Qual è il problema? Poi vengono armare di Jabhat al-Nusra lì a Damasco in Siria e vanno a bombardarla a Mali. Come mai? Allora, quando giocano a noi in Europa, allora dobbiamo combatterli. Quando ci mandarli giù, va benissimo. Non chiarissimo, Mohamed. Sentiamo Evaristo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie di avermi dato l'opportunità. Prego. Il più tanto l'ha detto Omar, io sono un italiano di Bergamo, ho lavorato in Iraq, Libia e in Siria. Quindi conoscevo, volevo testimoniare quello che ha testimoniato Omar. Quindi l'ha detto lui. Mi resta solo una cosa. Come mai l'Iraq e la Libia in pochi mesi sono andati, hanno sistemato tutto, mentre in Giordania e in Siria nessuno vuole andare a sistemare la faccenda? Che interessi ci sono? Perché lasciano che i civili vengano massacrati? Questo è quello che mi è rimasto. Grazie Evaristo, adesso girerò la domanda anche ai nostri ospiti. Sentiamo anche un altro, Mohamed, in questo caso da Ragusa, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascolta, io volevo mettere in evidenza 2 cose importanti. È siriano anche lei, Mohamed? No, sono del Marocco. Conosce molti amici della Siria, sì. Anche prego. Perché sono presidente di una comunità straniera. Il discorso è questo, sono 2 cose. La prima, dobbiamo smetterla di collegare qualsiasi movimento o qualsiasi cambiamento di attitudine di cittadini in un paese che sono stanchi, hanno cambiato, lo colleghiamo ai movimenti che siano di culto, se musulmani contro cristiani o sciiti o sunniti. Non esiste questa. E la seconda, noi lo sappiamo tutte, solo che noi vogliamo avere un po' di tempo per fare le cose che ci piace a noi. Cioè, quando noi si sputa il signore Obama e ci dice allora attenzione, io la Siria non posso fare niente fino a quando non si usa le armi nucleari, una, o le armi chimiche forse, chimiche, sì. E 2, quando per esempio, noi sappiamo tutti la zona della Siria dove si trova, attorno alla Siria ci sono dei paesi dove l'America ha un grande interesse e non si permette mai, a parte l'Israele, questo anche, non ci può permettere mai a fare con un passo sbagliato che complica un sistema di dell'interesse, certo, dell'America. Cioè queste, poi scusami, le volevo dire una cosa. Noi brevemente, Mohamed. Noi tempo fa, ma non ora, ma anche dal padre di questo signore, c'era sempre stato così, solo che ora la gente vuole cambiare, vuole avere un po' di democrazia, l'Occidente ha chiuso occhi, ha lasciato la gente, ma è stato anche qua, anche in Egitto, tutti ci ricordiamo quando è cominciata l'Egitto, la manifestazione, i fratelli musulmani, la prima cosa che hanno detto, signore, vedi che noi non c'entriamo con questa cosa. Non c'entriamo, perciò allora dobbiamo avere un'attitudine di cambiare le cose, anche perché mi dispiace io per gli italiani che devono ascoltare queste cose, l'ascolto tutti sbagliati, ma non è così, non è così. E mi dispiace un'altra cosa, un giornalista che va là a passare un grazie. Anno Mohamed, le avevo chiesto di essere breve, mi scusi se la interrompo, perché voglio in 30 secondi Alberto Negri, mi sembra che forse lo stesso Mohamed ci abbia detto perché, come chiedeva l'ascoltatore a Bergamo, non si interviene in Siria mentre si è intervenuti in Iraq e in Libia, perché la situazione è probabilmente molto più delicata. Ma non c'è dubbio, la Libia ha condizionato l'intervento in Siria, lo ha condizionato perché la Russia e la Cina erano già contrari all'intervento contro Gheddafi e hanno detto non vogliamo un'altra ripetizione della Libia. Gli americani esitano perché dopo quell'otto accaduto in Afghanistan e poi soprattutto in Iraq non vogliono essere coinvolti in un altro conflitto medio orientale, oltretutto in un momento in cui cercano di mediare una ripresa dei negoziati tra i palestinesi e gli israeliani. E la Siria poi probabilmente è una posta in gioco troppo difficile, perché forse non ha quei ritorni economici che poteva avere un Iraq e una Libia che hanno il petrolio, e soprattutto si propone come uno dei problemi più complicati che avrà di fronte la comunità internazionale nei prossimi anni. In 20 secondi, Schiavone, lei ha incontrato Assad qualche mese fa? Sì, io ho incontrato Assad a settembre, ho avuto un colloquio con lui a casa sua. E che le ha detto? Mi ha spiegato le sue ragioni, mi ha anche detto che lui era disponibile ed è stato sempre disponibile ad aprire un dialogo con l'opposizione. E anche a lasciare il potere? Ed anche a lasciare il potere. Non ha avuto mai una risposta, non ha avuto mai una proposta. Il fronte dell'opposizione è talmente spaccato, è talmente diviso, che non riescono ad esprimere una posizione chiara sulla Siria. È gente che non vuole. Schiavone, la devo interrompere. Grazie per essere stati con noi, a tutti i nostri ospiti, a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in redazione, a chi ha risposto alle vostre telefonate dal centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo lunedì. Ricordati! Mancano 59 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.